Dopo questa uccisione, la nobiltà è convinta che i giovani ufficiali che vogliono chiamare in Svezia il principe di Pontecorvo hanno ragione. Si giudica il re un assassino, voleva dire, ma tacque. Io alzai la testa. E il terzo e il quarto stato? Ah, le guerre perdute hanno vuotato le casse dello Stato. La nostra salvezza sta nel commercio con l'Inghilterra. Ma soltanto un uomo che sia in buone relazioni con Napoleone potrà impedire che la Svezia venga costretta ad aderire al blocco continentale. Questo lo capiscono anche il terzo e il quarto stato. D'altra parte, una corte miserabile non è amata dai commercianti. La Casa Vasa non può nemmeno più pagare i giardinieri dei propri castelli. Quando si disse ai borghesi che il principe di Pontecorvo è molto ricco, votarono per lui. Mamma, papà è davvero così ricco da poter pagare tutti i giardinieri della Svezia? Domandò Oscar. Beh, in genere si pensa che gli arrivati siano ricchi, dissi soltanto. Il popolo svedese e la sua aristocrazia hanno seguito questa opinione. Da qualche anno ho risparmiato una parte del mio stipendio. Posso comprare una casetta per voi e per il bambino. Così mi disse Giambattista in quella prima notte piovosa quando giravamo in carrozza per le vie di Parigi. Una casetta per me e il bambino, Giambattista. Non questo castello reale in Svezia, dove i nobili portano delle maschere nere e assassinano il loro re. Non questo castello davanti al quale il popolo uccide a colpi di pietra un maresciallo del regno, mentre le truppe del re stanno a guardare. Non questo castello, Giambattista. Mi copersi il volto con le mani e piansi dirottamente. Mamma, mamma cara! Oscar mi aveva buttato le braccia al collo e si stringeva a me. Mi asciugai le lacrime e fissai il volto severo del conte Brahe. Capiva questo giovane perché io piangevo. Forse non avrei dovuto raccontarvi tutto questo, Altezza Reale, disse, ma credo sia meglio che sappiate. La nobiltà, gli ufficiali, il terzo e il quarto stato hanno eletto mio marito. E Sua Maestà, il re? Il re è un Vasa, Altezza, un uomo che ha poco più di 60 anni e già soffre di continui colpi di apoplessia. Un uomo dai ginocchi rattrappiti dalla gotta e dalle idee ormai poco chiare. Finora si è difeso come ha potuto e ha proposto un cugino tedesco del nord e tutti i principi danesi. Da ultimo ha dovuto cedere. Da ultimo ha dovuto cedere e accettare Giambattista per suo figlio adottivo, pensai. La regina è più giovane del re, non è vero? Sua Maestà la regina ha poco più di 50 anni ed è una donna molto energica e saggia. Che mi odierà, bisbigliai. Sua Maestà la regina si compiace assai del piccolo duca di Södermanland, disse Brahe calmo. In quel momento Mörner uscì dalla casa. Appariva lavato di fresco, il suo tondo viso di adolescente era raggiante. Portava un uniforme di gala. Oscar gli corse incontro. Oh, voglio vedere lo stemma sui bottoni! Prese a tastare il petto di Mörner. Guarda, mamma, tre piccole corone, un leone coronato. È proprio uno stemma bello. Sua Altezza Reale vi prega di recarvi nel suo studio. Lo studio di Giambattista offriva uno spettacolo singolare. Accanto allo scrittoio, sul quale, come sempre, erano ammucchiate le carte, era stato portato lo specchio del mio spogliatoio. Giambattista stava provandosi una nuova uniforme. Dietro a lui stavano inginocchiati tre sarti con la bocca piena di spilli. Religiosamente gli svedesi assistevano alla prova. Io osservai la nuova tunica turchino scura. L'alto collo era ornato di un semplice gallone dorato. Non vi erano i pesanti ricami aurei dell'uniforme di maresciallo. Giambattista si esaminava con serietà nello specchio. Tira, dichiarò gravemente, tira un po' sotto l'ascella destra. I tre sarti scattarono contemporaneamente in piedi, aprirono la cucitura sotto l'incavo della manica e la riappuntarono subito. «Potete trovare qualche difetto in quest'uniforme, Contessen?» domandò Giambattista e subito i tre svedesi gareggiarono in zelo. Essen scosse il capo, ma Friesendorf fece passare la mano sulla spalla di Giambattista dicendo «Vostra Altezza Reale, perdoni». Poi premette sulla schiena e dichiarò Sotto il collo si forma una piega. Tutti e tre i sarti tastarono la schiena di Giambattista, ma non poterono trovare alcun difetto. Fernando pronunciò naturalmente la sentenza. Signor maresciallo, l'uniforme va bene. La vostra sciarpa, conte di Essen, e già di sua mano Giambattista aveva staccato dalla cintura dell'amareggiato maresciallo la sciarpa giallo-azzurra e se ne cingeva. Dovrete tornare in Svezia senza la vostra sciarpa. Occorre a me per l'udienza di domani. In fin dei conti non ne posso trovare un'altra a Parigi. Mandatemi 3 sciarpe da maresciallo svedese non appena sarete a Stoccolma. Solo adesso si accorse di me. E l'uniforme svedese mi sta bene? Io annuii. Domattina abbiamo udienza dall'imperatore, ho chiesto udienze, vorrei che tu mi accompagnassi, mi comunicò. Essen, la sciarpa si porta sul cinturone o sotto? Sul cinturone, altezza. Benissimo, così non dovrò farmi prestare anche il vostro cinturone, porterò quello dell'uniforme di maresciallo, voglio dire di maresciallo francese, nessuno se ne accorgerà. Désirée, trovi veramente che l'uniforme mi stia bene? In quel momento, Madame Laflotte annunciò Giulia. Mi occorre anche una sciabola svedese da parata, udii ancora dire da Giambattista. Poi andai di là nel salotto. Giulia appariva piccola e sperduta tra le pieghe severe del suo mantello rosso granato. Stava alla finestra e guardava pensierosa in giardino. Giulia, perdonami, ti ho fatta aspettare. Al mio entrare Giulia sussultò, poi allungò un po' il suo magro collo. Spalancò gli occhi come se non mi avesse mai vista e si piegò seria in un inchino di corte. Sì, non prendermi in giro, ho già abbastanza grattacapi, le gridai stizzita. Giulia rimase seria. Altezza reale, io non scherzo affatto. Oh, sta zitta, drizzati subito e non farmi arrabbiare. Da quando in qua una regina si inchina a una principessa ereditaria? Giulia si drizzò. Quando si tratta di una regina senza regno, i cui sudditi fin dal primo giorno hanno fatto resistenza a lei e al re, e di una principessa ereditaria il cui marito è stato eletto da un parlamento unanime, successore al trono, è giusto così. Mi congratulo con te, cara, mi congratulo di cuore. Come fai a sapere tutto questo? Noi stessi lo abbiamo appreso soltanto questa notte, dissi io sedendomi con lei sul piccolo divano. Oh, scusami, ma a Parigi non si parla d'altro. Noi siamo stati messi soltanto dall'imperatore sui troni da lui conquistati, come suoi luogotenenti, per così dire. Ma in Svezia si raduna il Parlamento ed elegge liberamente. Oh, Désirée, mi gira la testa, rise. Poi oggi ho pranzato alle Tuileries, l'imperatore ha parlato a lungo di questo e si è burlato di me. Si è burlato di te? Figurati, mi ha trattata da sciocca. Voleva darmi ad intendere che adesso Giambattista chiederà congedo dall'esercito francese per diventare svedese. Abbiamo riso tanto. La guardai stupita. Riso? E che c'è da ridere? A me fa male il cuore se ci penso. Per l'amor del cielo, cara, non è mica vero? Io tacqui. Ma nessuno di noi ha mai pensato una cosa simile. Giuseppe, re di Spagna, è francese. E re Luigi d'Olanda non ne vorrebbe sapere di sicuro se gli dicessero che è olandese. E Gerolamo ed Elsa e... C'è una differenza però, dissi. Tu stessa hai detto dinanzi che c'è una grande differenza tra noi e voi. Di un po', pensate davvero di trasferirvi in Svezia? Giambattista certamente. Quanto a me dipende. Dipende da che? Ah, naturalmente ci andrò, chinai il capo. Senti, vogliono che mi chiami Desideria. In latino vuole dire la desiderata. Soltanto se a Stoccolma sarò veramente desiderata ci rimarrò. Ma che assurdità stai dicendo? Certamente sarai desiderata, affermò Giulia. Non ne sono così sicura, dissi io. Le antiche famiglie nobili della Svezia e la mia nuova suocera. Assurdo. Le suocere odiano soltanto perché si porta via il loro figliolo, ribatté Giulia, e penso a Madame Letizia. E Giambattista non è il vero figlio della regina di Svezia. E poi a Stoccolma tu hai Persson. Lui si ricorderà certamente di come lo hanno trattato papà e Stefano. Tu lo farai nobile e avrai subito a corte un buon amico. Continuò per consolarmi. Ti immagini tutto differente dalla realtà, sospirai. E mi accorsi che davvero Giulia non aveva un'idea esatta di quanto era avvenuto. I suoi pensieri tornarono alle Tuileries. Sai, è avvenuto l'incredibile. L'imperatrice è incinta. L'imperatore è fuori di sé per la gioia. Il figlio avrà il titolo di re di Roma, perché Napoleone è convinto che sarà un maschio. Da quando è incinta l'imperatrice? Di nuovo da ieri? No, già da 3 mesi e... Bussarono. Madame Laflotte annunciò. I signori svedesi che ripartono questa sera per Stoccolma chiedono di congedarsi da Sua Altezza Reale. Oh, li prego di accomodarsi. Non credo che alcuno degli svedesi abbia potuto capire dalla mia faccia quanto io sia atterrita dal futuro. Porsi la mano al feldmaresciallo conte di Essen, il più fedele servitore della casa di Vasa. Arrivederci a Stoccolma, Altezza, fu il suo commiato. Mentre accompagnavo Giulia nell'atrio, incontrai con mia meraviglia il giovane Brahe. Non tornate a Stoccolma col feldmaresciallo conte di Essen per preparare l'arrivo di mio marito in Svezia? Ho pregato che mi si nominasse provvisoriamente aiutante personale di Vostra Altezza. La mia preghiera è stata esaudita, sono ai vostri ordini, Altezza. Alto, slanciato, un ragazzo di 19 anni dagli occhi scuri, scintillanti d'entusiasmo e dai capelli ricciuti come il mio Oscar, il conte Magnus Brahe, figlio di una delle più aristocratiche e fiere famiglie di Svezia, aiutante personale della ex signorina Clary, figlia di un negoziante di sete di Marsiglia. Vorrei chiedere l'onore di poter accompagnare Vostra Altezza Reale a Stoccolma, aggiunse sottovoce. E allora osino se possono arricciare il naso a riguardo della nuova principessa ereditaria, quando le starà a fianco un conte Brahe, evidentemente, pensò. Si provino. Sorrisi. Grazie, conte Brahe, ma vedete, finora non ho mai avuto un aiutante e non so proprio quali incarichi io debba dare ad un giovane e distinto ufficiale. Ah, oh, Vostra Altezza Reale, verrà pure in mente qualcosa, mi confortò lui, e fino allora potrò giocare a palla con Oscar, pardon, col duca di Södermanland. A patto di non rompere altri vetri, dissi ridendo. E per la prima volta la mia angoscia si attenuò. Forse tutta questa storia non era poi così terribile. Avevamo appuntamento dall'imperatore per le 11 antimeridiane. 5 minuti prima delle 11 entrammo nell'anticamera dove Napoleone fa aspettare per ore intere diplomatici, generali, principi stranieri e ministri francesi. Al nostro apparire si fece un silenzio di tomba. Guardarono tutti con tanto d'occhi l'uniforme svedese di Giambattista e si scostarono. Proprio così si scostarono da noi, mentre Giambattista pregava uno degli aiutanti dell'imperatore di annunciare il principe di Pontecorvo, maresciallo di Francia, con la moglie e il figlio. Poi ci trovammo come su di un'isola. Nessuno voleva riconoscerci, nessuno si congratulava con noi. Oscar si stringeva a me e le sue magre dita di bambino si aggrappavano alla mia veste. Tutti i presenti sapevano che cos'era avvenuto. Un popolo straniero ha, in piena libertà, offerto una corona a Giambattista. Vedi là, sullo scrittoio dell'imperatore, si trova la sua domanda di esonero dall'appartenenza allo Stato francese e di congedo dall'esercito. Giambattista Bernadotte desidera di non restare più oltre cittadino francese. Occhiate sgomente ci sfioravano. Apparivamo loro addirittura in una luce sinistra. A corte si sapeva che nel gabinetto ci attendeva una tremenda scenata, uno di quegli scoppi di rabbia dell'imperatore per i quali tremavano le venerande pareti e l'intonaco si staccava dalle colonne. Sia lodato il cielo che lui fa sempre aspettare per ore, pensavo, e guardavo di traverso Giambattista. Egli osservava una delle due sentinelle davanti alla porta dell'imperatore, fissava i berrettoni di pelle d'orso, come se li vedesse per la prima volta o per l'ultima. In quel momento scoccarono le 11. Meneval, il segretario privato dell'imperatore, comparve. Sua maestà prega il principe di Pontecorvo e la famiglia di accomodarsi. Il grande studio di Napoleone è quasi una sala. In fondo a questa sala si trova il grande scrittoio e sembra interminabile la via che dalla porta conduce a questo scrittoio. Perciò l'imperatore per lo più riceve i suoi amici al centro della stanza, ma noi dovemmo attraversare tutta la sala. Immobile come una statua, Napoleone sedeva allo scrittoio, un po' piegato in avanti, quasi in agguato. Gli speroni di Giambattista tintinnavano proprio dietro di me mentre io, tenendo Oscar per mano, mi avvicinavo allo scrittoio. Napoleone aveva issato la maschera di Cesare, soltanto i suoi occhi balenavano. Dietro di lui, in piedi, stava il conte di Talleyrand, duca di Benevento, e l'attuale ministro degli esteri, il duca di Cadore. Dietro di noi, Meneval scivolò via in punta di piedi. Tutti e tre ci trovammo davanti all'enorme scrittoio, col bambino in mezzo a noi. Io feci la riverenza di corte e mi drizzai. L'imperatore non si mosse, ma guardò soltanto Giambattista. Negli occhi luminosi brillava una scintilla cattiva. Improvvisamente Napoleone balzò in piedi, scostò la sedia, uscì da dietro lo scrittoio e ruggì: «In quale tenuta osate presentarvi al vostro imperatore e comandante supremo, signor maresciallo?» «Questo uniforme è una riproduzione dell'uniforme di maresciallo del regno di Svezia, sire», rispose Giambattista. Parlava a voce bassa, seccamente. «E voi osate comparire qui, in un uniforme svedese, voi, un maresciallo di Francia?» Un pezzetto di calce si staccò da uno stucco della volta. Urlava come un forsennato. «Credevo che vostra maestà fosse indifferente alle uniformi portate dai marescialli», disse tranquillamente Giambattista. «Ho infatti veduto più volte a corte il maresciallo Murat, re di Napoli, nelle sue singolari divise». «Ben detto. Quel fanciullone del maresciallo Murat si mette delle piume di struzzo sul tricorno, si fa adornare la tunica di perle e porta dei ricami d'oro sui pantaloni da cavaliere. Il cognato di Napoleone ha un debole per queste divise. L'imperatore ne ride senza rimproverarlo». «Sua maestà, il mio reale cognato, si è combinato un uniforme di fantasia. Per quanto mi consta, si tratta di sue invenzioni». L'ombra di un sorriso errò intorno alla sua bocca sottile, ma subito scomparve. «Ma voi osate comparire in uniforme svedese davanti al vostro imperatore?» Napoleone batté i piedi per la rabbia e poi respirò profondamente. Oscar quasi si nascose nella mia gonna. «Ebbene, rispondete, signor maresciallo». «Ho ritenuto opportuno presentarmi a quest'udienza in uniforme svedese. Non era mia intenzione di offendervi, sire. D'altronde si tratta anche in parte di una mia invenzione, se vostra maestà vuol vedere». Sollevò la sciarpa e fece vedere la cintura. «Porto il cinturone della mia vecchia uniforme di maresciallo, sire». «Ah, lasciate da parte queste vestizioni. Veniamo al fatto». La voce dell'imperatore suonò di colpo forzata, parlava molto in fretta, il proemio che doveva intimidirci era terminato. «Come un attore», pensai, e mi sentii stremata. «Che non ci offra neppure una sedia?» Lui nemmeno ci pensava, se ne stava in piedi dietro al suo scrittoio e fissava un documento, la domanda di Giambattista. «Mi avete fatto rimettere un'istanza singolare. In essa manifestate l'intenzione di farvi adottare dal re di Svezia e chiedete l'autorizzazione di rinunciare alla cittadinanza francese. Uno strano documento, quasi incomprensibile se si pensa al passato. Ma voi probabilmente non pensate al passato, signor maresciallo di Francia». Giambattista aveva serrato le labbra. «Davvero non pensate al passato? Per esempio al tempo in cui una giovane recluta partì per difendere le nuove frontiere della Francia o ai campi di battaglia sui quali questa recluta combatté da sergente, da tenente, da colonnello e finalmente da generale dell'esercito francese e al giorno in cui l'imperatore dei francesi vi nominò maresciallo?» Giambattista tacque. «Non è molto che voi, a mia insaputa, avete difeso le frontiere della vostra patria». Sorrise, improvvisamente lusinghiero come una volta. «Forse, a mia insaputa, avete addirittura salvato la Francia. Già una volta vi ho detto, e poiché purtroppo non ricordate più il vostro passato, l'avrete anche dimenticato, già vi ho detto una volta che io non posso rinunciare ai servigi di un uomo come voi. Erano i giorni di Brumaio, ma forse ve ne ricordate. Se il governo allora ve ne avesse impartito l'ordine, voi e Moreau mi avreste fatto fucilare. Il governo non vi ha dato quest'ordine. Bernadotte, ve lo ripeto, io non posso rinunciare a voi». Si sedette e spinse da una parte la domanda. Poi alzò la testa e quasi di passaggio annunciò: «Poiché il popolo svedese ha scelto voi», alzò le spalle e sorrise beffardo, «ha scelto proprio voi come suo erede al trono, io, quale vostro imperatore e supremo capo militare, vi concedo l'autorizzazione di accettare l'elezione, ma come francese, come maresciallo di Francia, e con ciò la faccenda è liquidata. In tal caso comunicherò a sua maestà il re di Svezia che non posso assumere la successione al trono. Il popolo svedese vuole un principe ereditario svedese, sire», disse calmo Giambattista. Ma è assurdo, Bernadotte. Guardate i miei fratelli, Giuseppe, Luigi, Gerolamo. Forse che uno di essi ha rinunciato alla cittadinanza francese, o il mio figliastro Eugenio in Italia. Giambattista non rispose. Napoleone uscì di nuovo da dietro lo scrittoio e incominciò a camminare avanti e indietro come un invasato. I miyes occhi si incontrarono con quelli di Talleyrand. L'ex vescovo si appoggiava al bastone. Il lungo stare in piedi lo affaticava. Impercettibilmente mi strizzò l'occhio. Che cosa intendeva dire? Che Giambattista l'avrebbe spuntata? Dio buono, non sembrava proprio che le cose si mettessero così. Di botto, l'imperatore si fermò davanti a me. Principessa, disse insinuante, credo che non sappiate che la casa regnante di Svezia è demente. L'attuale re è incapace di proferire con chiarezza una sola frase e suo nipote ha dovuto essere deposto perché è pazzo. Proprio così, pazzo. Si batté sulla fronte. Principessa, ditemi, vostro marito è pazzo anche lui? Voglio dire così pazzo da voler rinunciare alla sua cittadinanza per la successione al trono di Svezia? Vi prego, in mia presenza, di non offendere Sua Maestà Carlo XIII di Svezia, disse seccamente Giambattista. Talleyrand, i Vasa sono o non sono pazzi? È una stirpe molto antica, sire. Le vecchie case regnanti sogliono essere molto sane, osservò Talleyrand. E voi, principessa, che ne dite? Bernadotte chiede anche per voi e per il bambino la rinuncia alla cittadinanza francese? È una formalità, sire, altrimenti non potremmo assumere la successione al trono di Svezia. Udii me stessa rispondere. Avevo risposto bene. Guardai Giambattista, ma Giambattista guardava fisso, più lontano. Diedi un'occhiata a Talleyrand. Il grande dignitario annuì impercettibilmente. Punto secondo. Il vostro congedo dall'esercito. Questo non va, Bernadotte. Questo proprio non va. L'imperatore era di nuovo ritto dietro lo scrittoio e studiava la domanda che certamente aveva già studiata innumerevoli volte. Non penso affatto a rinunciare a uno dei miei marescialli se si faranno delle altre guerre. Si interruppe, poi disse in fretta: Se l'Inghilterra non cede, si dovrà ancora fare la guerra, e allora avrò bisogno di voi. Come sempre, comanderete una delle mie armate, e a me sarà indifferente che siate o no principe ereditario di Svezia. I vostri reggimenti svedesi costituiranno una parte della vostra armata, o credete? Sorrise di colpo e apparve ringiovanito di 10 anni. Credete che possa affidare ad altri il comando dei Sassoni? Poiché nell'ordine del giorno di Vostra Maestà dopo la battaglia di Wagram si diceva che i Sassoni non hanno sparato neppure un colpo, non ha importanza chi li comandi. Affidate il comando a Ney, sire. Ney è ambizioso e asservito sotto di me. I Sassoni hanno preso d'assalto Wagram. Io non penso affatto di affidare a Ney le vostre truppe. Vi permetto di diventare svedese purché restiate maresciallo di Francia. Ho molta comprensione dell'ambizione dei miei marescialli. Inoltre voi siete adattissimo all'amministrazione autonoma di un paese. Penso alla Hannover, alle città anseatiche. Siete un magnifico governatore, Bernadotte. Io chiedo di essere congedato dal servizio nell'esercito francese. Napoleone batté il pugno sullo scrittoio. Parve un colpo di tuono. Mi dolgono le gambe. Posso sedermi, sire? Mi sfuggì detto. L'imperatore mi guardò. Lo scintillio dei suoi occhi cessò. Il suo sguardo si fece grigio. Sembrava che tenesse davanti agli occhi un cannocchiale rovesciato. L'immagine davanti a lui si rimpiccioliva sempre di più. Da ultimo vide, forse lontano lontano, una piccola scena. Una ragazza in un giardino al crepuscolo. La ragazza correva a gara con lui e lui per gioco la lasciava vincere. Dovrete stare ritta per molte ore quando riceverete, come principessa ereditaria di Svezia, i vostri sudditi, Eugenia, disse con calma. Prego, sedetevi, signori, accomodatevi tutti. Ora sedevamo tutti di buon umore intorno al suo scrittoio. Dove siamo rimasti? Ah, voi chiedete di essere congedato dall'esercito, principe di Pontecorvo, per unirvi alle vostre armate non più come maresciallo di Francia, ma come nostro alleato, ho ben capito? Solo adesso si contrassero per l'attenzione i lineamenti del ministro degli esteri. Qui dunque voleva arrivare Napoleone a questo, all'alleanza con la Svezia. Se io mi piego alle richieste che voi per ragioni formali mi rivolgete, ciò avviene perché io non intendo naturalmente creare degli ostacoli a che uno dei miei marescialli sia adottato da un'antica e non perfettamente sana casa reale. È stata, direi, perfino un'ottima idea del popolo svedese questa di manifestare la propria amicizia con la Francia attraverso la scelta di uno dei suoi marescialli. Se fossi stato interpellato prima dell'elezione, avrei addirittura proposto uno dei miei fratelli per dimostrare quanto mi stia a cuore questa alleanza e quanto io apprezzi la casa Vasa. Ma poiché non sono stato interpellato e devo perciò prendere posizione a cose fatte di fronte a questa sorprendente elezione, così mi congratulo con voi, caro principe. Mamma, non è poi così cattivo, sussurrò Oscar. Talleyrand si morse le labbra per non ridere e altrettanto fece il duca di Cadore. Napoleone guardò per un momento pensieroso Oscar. E proprio per questo figlioccio ho trovato io un nome nordico, e per di più tra le calde sabbie d'Egitto. Incominciò a scuotersi per le risa e batté sulla coscia di Giambattista. Non è pazza la vita, Bernadotte? E a me, avete udito, principessa, che l'imperatrice aspetta un figlio? Io feci cenno di sì. Mi congratulo con voi, sire. Napoleone guardò di nuovo Oscar. Capisco che vogliate diventare svedese, Bernadotte. È bene restare nella legalità, non fosse che per il bambino. Mi dicono che il pazzo deposto ha anche lui un figlio. Questo figlio esiliato non dovete perderlo d'occhio, Bernadotte, mi capite? Adesso si mischia anche nei nostri progetti per l'avvenire, pensai. Meglio così si adatta alla realtà. Me ne val, la carta dei paesi nordici. Il grande mappamondo, presso lo scrittoio, si intende soltanto un giocattolo. Quando si tratta di decidere, me ne val porta le grandi carte geografiche. Venite qui, Bernadotte. Giambattista si sedette sul bracciuolo della poltrona di Napoleone. L'imperatore svolse la carta e se la distese sulle ginocchia. Quante volte questi due si saranno seduti così insieme in un quartier generale, pensai. La Svezia, Bernadotte, la Svezia non osserva il blocco continentale. Qui c'è Göteborg, qui si scaricano merci inglesi che vengono trasportate a Stralsunda nella Pomerania svedese e di là arrivano di nascosto in Germania. E in Russia? Disse quasi di passaggio Talleyrand. Il mio alleato, lo zar di tutti i russi, non consacra purtroppo a questo problema una sufficiente attenzione. Comunque, la Svezia è la causa di tutto il male. Voi in Svezia la farete finita e, se sarà necessario, dichiarerete guerra all'Inghilterra. Meneval aveva incominciato ad annotare alcune tra le cose più importanti. Talleyrand guardava con interesse Giambattista. La Svezia completerà il blocco continentale. Credo che possiamo fare assegnamento sul principe di Pontecorvo, assentì il duca di Cadore soddisfatto. Giambattista taceva. Avete qualche cosa da obiettare, principe? Domandò bruscamente l'imperatore. Adesso soltanto Giambattista alzò gli occhi dalla carta. Naturalmente farò, con tutti i mezzi di cui potrò disporre, l'interesse della Svezia. «È l'interesse della Francia!» disse l'imperatore. La domanda era ben chiara. Giambattista si alzò, arrotolò con cura la carta dei paesi nordici e la consegnò a Meneval. «Per quanto mi consta, il governo di Vostra Maestà sta trattando col governo svedese per la conclusione di un patto di non aggressione, che potrebbe essere esteso e convertito in un patto di amicizia. Credo perciò che potrò servire non soltanto la Svezia, ma anche la mia antica patria». «Antica patria!» Facevano così male queste parole. Il viso di Giambattista appariva stanco. Profonde rughe legavano insieme il naso e gli angoli della bocca. Voi siete principe di un piccolo territorio che si trova sotto l'alta sovranità francese, disse l'imperatore. La sua voce era fredda. Sono costretto a togliervi il principato di Pontecorvo e le sue notevoli rendite. Giambattista annuì. Nella mia domanda ho fatto espressa richiesta di questo, sire. Pensate di arrivare in Svezia semplicemente come il signor Giambattista Bernadotte, maresciallo di Francia in congedo? Se lo volete, si potrebbe, in considerazione del vostro merito, lasciarvi il titolo di principe. Giambattista scosse il capo. Vorrei, rinunciando al principato, rinunciare anche al titolo che vi è connesso. Se tuttavia Vostra Maestà volesse, in considerazione delle mie passate benemerenze verso la Repubblica, essere tanto benigno da esaudire un mio desiderio, chiederei che si conferisse una baronia a mio fratello di Pau. Napoleone era sconcertato. Non conducete in Svezia con voi vostro fratello? Là potreste dargli un titolo comitale o nominarlo duca? Non ho intenzione di condurre con me in Svezia né mio fratello né altri membri della mia famiglia. Il re di Svezia desidera adottare soltanto me e non tutto il mio parentado. Credetemi, sire, so quel che faccio. Involontariamente guardammo tutti l'imperatore. Sui suoi inetti fratelli egli fa piovere corone, titoli, onori. Credo che abbiate ragione, Bernadotte, disse lentamente Napoleone e si levò. Noi tutti pure ci alzammo in piedi. L'imperatore si accostò allo scrittoio e per l'ultima volta esaminò la domanda. E i vostri beni in Francia, in Lituania, in Vestfalia? Domandò distrattamente. Sono in procinto di venderli, sire. Per pagare i debiti della dinastia dei Vasa? Sì, e per sopperire alle spese di corte della dinastia dei Bernadotte in Svezia. Napoleone impugnò la penna, ancora guardò or l'uno or l'altro di noi. Con questa firma voi, vostra moglie e vostro figlio cessate di essere cittadini francesi, Bernadotte. Devo firmare? Di nuovo Giambattista assentì. Io cercai la sua mano. Scoccavano le 12, squillò nel cortile un segnale di tromba, incominciava la parata della guardia. Il suono di tromba coprì lo scricchiolare della penna. Questa volta non percorremmo più da soli la lunga via dallo scrittoio dell'imperatore alla porta. Napoleone ci accompagnò. La sua mano posava sulla spalla di Oscar. Meneval spalancò la porta dell'anticamera. Diplomatici, generali, principi, stranieri, ministri francesi si inchinarono. Vorrei che vi congratulaste con le loro altezze reali, i principi ereditari di Svezia, disse l'imperatore. E con «Io sono il duca di Södermanland», squillò la limpida infantile voce di Oscar. «E col mio figlioccio, il duca di Södermanland», aggiunse Napoleone. Durante il ritorno, Giambattista se ne stette raggomitolato nell'angolo della carrozza. Tacevamo e sapevamo tutto l'uno dell'altra. In Rue d'Anjou si erano radunati i curiosi. Qualcuno gridò «Viva Bernadotte! Viva Bernadotte!» Come allora, quando Napoleone si era impadronito del potere e alcuni credevano che Giambattista potesse difendere la Repubblica contro di lui. Davanti al portone di casa nostra ci aspettavano il conte Brahe, il barone Gustavo Mörner con alcuni signori svedesi giunti da poco con importanti messaggi da Stoccolma. Vi prego, signori, di scusarci, Sua Altezza ed io vorremmo restare soli, disse con un cenno di diniego Giambattista. Passammo davanti a loro e ci recammo nel salottino. Ma non eravamo soli. Da una poltrona si levò una figura scarna. Fouché, duca d'Otranto. Il ministro di polizia, recentemente caduto in disgrazia perché aveva incominciato a trattare con gli inglesi, e Napoleone è venuto a saperlo. Stava ora davanti a noi e mi offriva delle rose di un rosso cupo, quasi nere. Posso congratularmi? Bisbigliò. La Francia è orgogliosa del suo grande figlio. Ah! Lasciate Fouché, ho rinunciato or ora alla cittadinanza francese, disse Giambattista seccato. Lo so, Altezza, lo so. E allora scusateci, vi prego, ora non possiamo ricevere nessuno, dissi io, e presi dalle sue mani le rose. Quando finalmente fummo soli, ci sedemmo l'uno accanto all'altra sul sofà ed eravamo stanchi come se avessimo percorso tanta, tanta strada. Poco dopo Giambattista si alzò, si avvicinò al pianoforte e batté distrattamente con un dito sui tasti. La Marsigliese. Sa suonare soltanto con un dito e niente altro che la Marsigliese. Oggi ho visto Napoleone per l'ultima volta nella mia vita, disse di punto in bianco e continuò a strimpellare la stessa melodia, sempre quella, la Marsigliese.